Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. L'attenzione sui titoli di Stato non si attenua e i dati sull'occupazione di Spagna e Germania sembrano disegnare il profilo di un'Europa che viaggia ormai a doppia velocità. Sono questi i principali argomenti al centro della cronaca economico-finanziaria europea e di questa puntata di Economia in Europa. Cominciamo con i titoli di Stato. Nell'asta di mercoledì 4 gennaio la Germania ha collocato titoli decennali per oltre 4 miliardi, poco sotto il massimo previsto di 5 miliardi, ma le richieste hanno superato l'offerta raggiungendo i 5 miliardi e 140 milioni di euro. L'Agenzia del Debito tedesca ha definito l'esito dell'asta un solido risultato. Nel dettaglio, il tasso medio è stato dell'1,93%, in calo rispetto all'1,98% del collocamento del 23 novembre scorso, e il rapporto fra domanda e offerta è salito a 1,27 dall'1,1 precedente. I risultati dell'asta tedesca hanno però fatto risalire lo spread fra BTP e Bund oltre i 500 punti base. E poco dopo la Banca Centrale Europea ha iniziato a comprare titoli di Stato d'Italia e Spagna. Non si arresta, insomma, l'attenzione sui titoli di Stato. Anche lo spread dei decennali francesi, gli OAT, mercoledì è tornato sopra i 140 punti. Restiamo in Germania, dove il tasso di disoccupazione è sceso a dicembre al 6,8% dal 6,9% del mese precedente, il minimo dalla riunificazione, grazie al boom delle esportazioni di auto e componentistiche e al buon andamento delle costruzioni. Il numero dei disoccupati, fa sapere l'Agenzia del Lavoro, è sceso su base destagionalizzata a 2,89 milioni, 22.000 in meno rispetto al mese precedente. Ma in parallelo è record negativo per il dato dei disoccupati in Spagna. I senza lavoro hanno toccato i 4,42 milioni, livello mai toccato prima. Il dato, afferma il Ministero del Lavoro spagnolo, conferma il peggioramento della situazione economica nel secondo semestre del 2011. Si può quindi parlare davvero di un'Europa a due velocità? Alla luce di questi dati divergenti, Valentina Furlanetto l'ha chiesto a Francesco Daveri, professore di politica economica all'Università di Parma. Credo che sia un buon riassunto di quello che sta succedendo in Europa, non solo in dicembre o in novembre, ma ormai da un paio d'anni. Abbiamo che l'Europa del Nord, che è quella che è più solidamente integrata nei processi di globalizzazione, che è così guidata dalla Germania, ma che ha intorno i paesi che erano una volta dell'area del Marco, e poi i paesi nordici che stanno andando molto, molto bene, a cominciare dalla Svezia, che è pure fuori dall'area euro, ma è comunque dentro l'Europa. Insomma, tutta quest'area è un'area di vincitori, cioè di gente che è uscita dalla recessione del 2009 e che ha economie che crescono del 3% l'anno o a qualche cosa di meno, e che quindi produce dei risultati molto positivi sul mercato del lavoro. Prima di tutto la Germania, che ha appunto 41 milioni di occupati e un tasso di disoccupazione che è sceso sotto il 7%, che per i tedeschi è un tasso inusualmente basso. Dall'altro lato abbiamo l'Europa del Sud, che invece continua a dare risultati che sono molto più negativi. L'Europa è sull'orlo della recessione, lo ha dichiarato mercoledì Jean-Claude Juncker, presidente dell'Eurogruppo e premier del Lussemburgo. Per Juncker l'Europa deve agire in modo adeguato al rallentamento economico. Parlando alla radio tedesca, Juncker ha dichiarato che la zona dell'euro è sull'orlo di una recessione la cui ampiezza potenziale resta sconosciuta. Deve essere ancora determinata, ha detto. Nella stessa intervista, il presidente dell'Eurogruppo ha escluso che la Grecia possa uscire dall'euro. La Grecia non sta contemplando il ritorno alla dracma, ha affermato, e il ritorno alla moneta greca, ha concluso, non è un'opzione. E restiamo in Grecia, con dei dati molto preoccupanti. Oltre 3 milioni di abitanti del paese, il 27,7% su una popolazione totale di 11 milioni, ovvero più di uno su quattro, vivevano al di sotto della soglia di povertà o in condizioni di esclusione sociale nel 2009, il secondo anno della recessione economica che aveva colpito la Grecia. Lo riferisce il quotidiano Katimerini, citando i risultati di uno studio condotto dall'Istituto Statistico Ellenico Elstat. Per soglia di povertà si considera il reddito minimo che una famiglia di quattro persone deve guadagnare mensilmente per pagare affitto e generi di prima necessità come alimenti, trasporti, vestiario ed istruzione. Nello stesso periodo, inoltre, in base alla ricerca, un quarto, il 25,5% di coloro al di sopra della soglia di povertà vivevano in abitazioni non adeguate alle loro necessità, mentre il 27,8% avevano difficoltà ad arrivare alla fine del mese con i loro redditi. Il numero delle persone residenti in famiglie senza lavoratori a tempo pieno è passato a 544.800 nel 2009 da 488.200 nel 2008, mentre il 50% di coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà hanno un reddito annuale di poco più di 5.498 euro. Quest'anno, in base alle nuove misure di austerity introdotte dal governo di Atene per cercare di evitare che il paese vada in bancarotta, il minimo imponibile è stato ridotto a 5.000 euro. Andiamo in Italia, dove i negozi non avranno più vincoli di orari. È l'effetto delle misure di liberalizzazione del settore varate dal governo Monti. In precedenza, l'apertura senza limiti degli esercizi commerciali era consentita solamente nelle località turistiche. Ci sono 90 giorni di tempo a partire dall'inizio del 2012 per adeguarsi, ma alcuni enti locali, come la Regione Lazio, hanno già dato il loro ok, facendo così rientrare nel nuovo regime di orari liberi anche la stagione dei saldi invernali 2012. Secondo le organizzazioni dei commercianti, questa decisione causerà un danno al settore che potrebbe determinare la perdita di 67.000 posti di lavoro. La Confesercenti di Roma minaccia la serrata e chiede alla Regione Lazio di opporsi alla liberalizzazione degli orari. Walter Gianmaria, presidente Confesercenti Roma e Lazio, fa notare come gli altri paesi europei si stiano muovendo in direzione opposta a questo proposito, facendo dei passi indietro rispetto a decisioni di questo tipo. Noi diciamo sempre che il settore del commercio ha bisogno di regole. Siamo l'unica nazione che liberalizza il commercio e gli orari, e mentre le altre nazioni come la Germania, come l'Inghilterra, come la Francia stanno facendo invece delle grandi operazioni di ritorno, facendo dei passi indietro su questo tipo di discorso, sia sulla grande distribuzione, cioè sull'inserimento di centri commerciali. La Francia sta facendo e sta creando degli incentivi affinché si ritorni nella piccola e media impresa. Noi che abbiamo il 95% delle nostre realtà imprenditoriali di piccola e media impresa, invece il governo e le istituzioni locali e alcune istituzioni locali vorrebbero uccidere sempre di più. Siamo stufi di questa situazione, io penso che sia arrivato il momento che la piccola e media impresa reagisca a questo e si faccia non soltanto una serata diciamo nel nostro territorio, ma una serrata a livello nazionale. Perché questo ci sembra giusto, e che la piccola e media impresa, che crea ricchezza, crea posti di lavoro, crea occupazione, crea bellezza, crea sicurezza nelle nostre città e nei nostri paesi, sta a essere uccisa nell'indifferenza totale della politica. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.